è qualcosa. Quindi utilizzate il convertitore normale e quelli universali, così? No, non ho capito. Sì, sono universali comunque. L'importante è che siano a PLL. Sì, sì, ho mutato quei 22 kg. Perché gli altri, quelli altri a coso, col filtro, ce la mettono, vanno bene. Che io prima, vabbè, ormai sono tutti, per gli impianti fissi ci vogliono solo quelli lì, quelli universali, sarebbe uno spreco utilizzare quelli col, come si chiama, col polarizzatore. Io ce l'avevo col polarizzatore, con la grande l'ho tolto, gliel'ho messo normale perché ormai la sto tenendo ferma con la grande, ma lì c'avevo il polarizzatore, c'avevo un amplificatore, come si chiama, un convertitore professionale della California Amplifier, che all'epoca era il topo del topo, stava una barca di soldi. Adesso te li tirano a faccia a 10 euro, li trovi forse anche meglio di quelli, non dico come guadagno, però come ci fa del rumore forse sono anche meglio di quelli. Quando l'avevo preso io era il topo del topo, addirittura c'aveva anche una specie di LED, infatti quelli che c'erano fuori nel palazzo dice vediamo questo affare, questo LED piccolino, siccome è alimentato a 18 volte, era alimentato quello lì, 12 o 18 a seconda della polarizzazione orizzontale e verticale, poi c'era il polarizzatore magnetico che lo dovevi, che si muoveva all'interno, c'era un sistema magnetico, perché c'è anche quello meccanico. E tu dici, ho preso questo puntino la notte che si muove, ma cos'è, cos'è tua? Perché faceva anche impressione, ti fai conto, tutto al buio, vedi questa cosa, tipo una lucciola nel cielo, vicino alla parabola che si muove. Sì, decisamente. Io però non trovo con le serie R, proprio il più scarso che ho trovato. Qui ho un bidone di cavolo, ecco qua, il più scarso che c'è, e lo voglio utilizzare per fare questo esperimento qua, con le serie R. Qua lo vuoi fare in diretta? Sì, lo attacco un attimo, vedo un po' cosa mi dice. Ma è 7.003, una domanda, se si può dire, riesce ad andare anche negli 11 metri? Anche in? In 11 metri? Cosa è l'effetto, cosa? DCR o cosa? Che dice il trasmettitore 7003 della cosa, della, come si chiama, della ICO? Ha voglia, frequenza dovrebbe andare, cioè, è una HF normale, quindi ce l'ha già, aperta. No, vabbè, ci sono quelli che magari saltano gli 11 metri, la banda degli 11 metri, vari partono. Molte volte bisogna fare una piccola modifica per permetterlo di accogliere. Magari adesso si fa via software, ma per dire, in certi apparati di un certo livello di prima dovevi fare un ponticello, saltare. No, va tutto. È fatto tutto lui. Quindi non c'è problema per quello, tutto lì, va fino a 74, eccellente apparecchio, devo dire, per il prezzo che è il più venduto, tra l'altro nell'ambito proprio della 27, perché costa poco e dà un'altissima qualità. E quindi anche i modi digitali teoricamente li puoi far funzionare anche negli 11 metri? Sì. A prescindere tutti gli apparecchi lo possono fare, anche il 2000 lo fa, non c'è bisogno di un 7003 per dire, non capisco poi in modo digitale i gesti sul computer, non è, però in questo caso se come si chiama? Il 2000 può fare tutto, il vantaggio del 7003 è che c'è solo la presa USB da collegare a base. Cioè lo devi fare senza bisogno di mettere dei coso, delle applicazioni o cose del genere, lo fai direttamente in trasmissione? No, l'applicazione ci vuole lo stesso, ci vuole il computer, ci vuole, se mette l'USB, da USB va. Sono apparecchi oramai che fai tutto con USB, sono di computer che si collegano ad altri computer, lì non è che, capito, bisogna entrare in quell'idea che le radio oramai, queste di ultima generazione, sono tutti dei piccoli computer. Sì, no, quello naturalmente. Allora, io l'ho capito, te l'ho collegata. Adesso ti devo collegare questa donna, che l'audio. Cosa stia ricevendo, non si può vedere. Mi hai mandato qualcosa? No, sto provando se il programma per il DRM riesce a funzionare ancora un po'. Allora, lanciare innanzitutto, vediamo se ti lasciare, da tanto qua funziona tutto. Anche ti mando un po' davanti delle, ma non mi viene il nome, sono dei programmi che servono ad adattare determinati net, vabbè, non mi viene da. Aspetta Luca, sei ancora operativo, ci sei Luca? Sì, ha soldato in mano Robè. Riga, scoppia. Vediamo un po' di volare. Non ti dare a cazzo di vedere. Vediamo anche adesso di avere il capriccio. Come mai sale così in alto di frequenza quel 7003? Come sale così in alto di frequenza? E arriva a 74. Ma non lo so. Non la fa vedere bene. E via la ISCO. No, perché c'è qualche parte del mondo che si possono utilizzare con le frequenze civili. Perché quella fretta era radio amatoriale, poi è stata tolta, era solo provvisorio. Magari da altre parti è concessa. E lì con le frequenze intorno ai 70 ci sono cose militari. E sì, qua in Europa sì. Ma anche in Giappone dove ci siano. Però c'è una mamma che sta buco lì. Sai com'è? Secondo te in Giappone, c'è la minci in Giappone, in Cina, li fanno usare i baracchini. Ma dopo in Giappone o in Cina? No, Cina volevo dire. E lì la radio, come si chiama, come lo usiamo noi, la banda cittadina, già se ti trovano leggendo qualcosa di strano o ascoltando qualcosa di strano ti ci mettono lei. Ma non credo, perché comunque usano social, tutte quelle cose lì di baracchino, la cosa più facile è anche da tenere su Tokyo, non dovrebbe dare problemi. No, magari quello lì ti capita sicuramente in Afghanistan, se li pigiare da cammino il giorno dopo ti ritrovi senza testa, anzi forse anche senza testa il giorno dopo. In Iran ti buttano in carcere e poi uno chiede, ma dove era quello di violare? Non sa più nessuno, sparito. E poi, ma anche nei paesi un po' strani, no? Quelli di quell'area, anche in Egitto non ci sarebbe da scherzare comunque, la tua regime cane. Okay, ma qualcuno che ti ricordi tu ne ha fatto attivazioni in Cina, in Coso, in Iran, in Egitto, lo stesso? Sì, ci sono anche lì, poi magari, non so, qualcuno del governo, qualche pezzo grosso che le può fare, perché la gente non è che c'ha il reddito per comprare antenne e trick e track. E magari ce l'ha qualche università, qualche istituto scolastico importante di telecomunicazione, cosa del genere, non ce l'avrà nessuno, radioamatori cinesi, buh. Dopo, questione è quella, capito? I più attivi, considerando che non è proprio una democrazia, ce ne sono tanti di russi, e li sento anche, capita di ascoltarli anche qua ai 27 dei CB. Sì, di russi ce n'è anche tu, ce ne sono anche truppi, ma sentiamo dappertutto. Come si chiama quello che è entrato l'altro giorno, che c'aveva il baracchino rumeno, che dice la fidanzata, la moglie rumena, che dice di lì, siccome la copertura dei cellulari non è in Romania molto sviluppata, utilizzano quasi tutti, ce l'hanno in macchina il baracchino. Non è vero. Non si può lasciare, dopo non lo chiamato SDR Sharp. C'entra qualcosa con la Sharp vera e propria, la casa madre, diciamo, di apparati elettronici, o è un nome così che hanno messo Sharp per, non lo so, per qualche motivo? Ah, non credo, non sono cose, diciamo, particolarmente, penso, questo qua va, poi 700, ah, che carina. Cosa stai cercando in particolare? Oh, mamma mia, sono a 77, non parliamo delle altre. Quando trasmetto va in palla, che è una cosa da paura. Ma tu, una curiosità, stai utilizzando un apparato tipo HF o cose del genere per ricevere adesso, o stai utilizzando tipo un persiero, una chiave? Poco fa c'avevo un radio che, se non pari, superiore alla al coso, al persero. Adesso sto utilizzando quelle chiavette che vuoi utilizzare tu, ma stare attento a non premere troppo a portante, se non piglia buco, se sono con due watt. Addirittura, anche per lui sono la puoi utilizzare. No, non è cosa. Ma ti esplode in mano, cacchio. Ma mi falla tutto, no? Quando fa questo stupido ci vuole battere, non vedi, vedere che attacca. Ma guardando in effetti 8, il rapporto è 1 a 100 rispetto alla stessa quantità di energia, diciamo energia di ricezione che riesce a avere. Cioè dire, se tu c'è cioè un trasmettitore da 100 watt, o una miglia, adesso non vuole dire, aiutami tu, se avete una fesseria, se tu c'hai 100 watt in AM, diciamo normale, per avere la stessa distanza coperta basta 1 watt in effetti 8. Sì, probabilmente sì. Che è più performante, ma è un tentativo disperato non posso trasmettere, ma se faccio questa cosa c'è che avrete proprio da buttare. Comunque vedo che gli radioamatori ci vanno tantissimi, qualcuno di quelli vecchio stampo non gliene frega niente, ma ce ne sono tanti che fanno sempre questo FT8, tutti FT8, FT8. Sì, mi faccio anche io tutto, però fa tutto lui, tu cosa fai? Un tubo lo lasci lì, e così. Vabbè, purtroppo, come il vecchio CV doppio, all'inizio tutti quando non riserva la fonia andavano, ci parliamo ai tempi antichi, in CV doppio, poi è uscita la ma non c'è il gusto, non c'è, poi è uscita adesso quello che ti decodifica, ti fa tu parli e te lo manda direttamente parlando, ti trasmette in CV doppio il computer. Sì, peccato che quello lì però non abbia bisogno neanche dell'operatore, secondo me. Tu cosa ti guardi il monitor, ah che bello, guarda si sta collegando, sta facendo un DX, ah che bello, e tu non fai un tubo, pratico a guardare. Io lo so, però c'è gente che si diverte così pura. Lo so, però vorrei farti un giro in, che ne so, in macchina, dopo torni e c'hai 30-40 DX. A tutto il computer. Infatti non capisco se hai divertimento. E ancora un paio di minuti e poi stacco la trasmissione. Domani sera se riesco vado da anche da Ruginito a ritirare quella scatoletta. Ecco, sai cosa ti dico. Adesso la prendo. Tirerà un po' insomma, ci non capisco. La voglio vedere cosa c'ha di diverso dalla tua, perché guardandole così, almeno in fotografia sembrano identiche. Quella là c'aveva la luce rossa, quella tua c'ha la luce verde, però guardandole sembrano identiche. Sono identiche, le fanno in tutte le sale. spazio oramai queste chiavette, che poi dentro sovrappe c'è solo il processore che è l'RTL e basta. Il problema è quando devi fare cose serie, che c'è tante antenne e tante trasmissioni, anzi devo ringraziare che non ho trasmesso, sono qua con 2 watt e non in HF con 30-40, se no lo vedi il fumo uscire da dentro. Figurati, io sono qua in 27, di lì ero in 3 MHz. Ah, c'è un pochino di differenza, è una qualsiasi radio, anche la piscaccina, anche il ricevitore più balordo non riesce a essere disturbato così. Ok, vediamo se c'è qualche donato che vuole entrare, tanto un paio di minuti come ho detto prima, sta poco stato, avanti 10 che vuole entrare. Oggi era un po' muscia la frequenza, dai. C'era poca gente, tutti saltuari di passaggio, di nuovo a te Gianfranco. Sì, infatti anch'io sto, allora sto prova, lo spegniamo, anche se è acceso, anche troppo, e poi ci vediamo. Quindi domani mi devo mettere a posto l'antenna satellitare, quindi devo andare a prendermi questi due come si chiamano, l'NB, poi devo raffallare, poi devo fare un collaudo per mettere a posto la parabola della TV, dopodiché vediamo bene. Tu lo stai ricevendo, la TV la ricevi via satellite o in digitale terrestre? Che cosa là? La TV di casa, come la ricevi, via satellite o via digitale terrestre? No, via digitale terrestre, ce l'ho qua di fronte al repetitore, se non anche senza antenna, ce l'ho proprio in vista ottica tutti quanti, anche quelli che non vorrei vedere. E poi c'ho anche quella via satellite con l'esplorazione. C'ho il motore, però questo motore su questi televisori moderni sta rompendo troppo le scatole, quindi mi sa che non è un stacco e ci faccio una cosa diretta, astra e hot build. E così in un dual fit. Non c'ho da pure le scatole perché il televisore prima di azionare il motore ne vuole sapere poche cose. E a quel punto tanto tu hai la scheda TV salta. Potrei mettere la scheda ma non me ne frega niente. No, no, dico, non te l'hai presa la TV sat, la scheda. Io sono uno dei primissimi, ce l'ho forse più di 10 anni, quando era appena uscito il digitale terrestre, avevo preso la scheda TV sat, in modo che ti guardi, poi c'ho la TV sat HD. Sì, ma il televisore basta inserire la scheda e va, ma è a me che non me ne frega niente, capito? La roba che c'è non ho tempo di guardarmi l'abbonamento che ho su Prime, quello su Netflix, giusto quando me ne ricordo, infatti stasera mi guardo quello di Verdone, gira il film, che non è impegnativo, poi tutto l'altro, chi ce l'ha il tempo? Già lo so anch'io, poco niente, qualche partita mi guardo così e basta, no? Dico adesso ormai ti diverti più guardare qualche immagine su internet, se non vuoi sentire qualche cosa, qualche argomento prendi, e poi alla fine stanno diventando ripetitivi, come molte volte i film, guardi tra l'altro 3 volte consecutive, in 3 diverse televisioni, infatti come è possibile che non si rendano conto? Mi è capitato una volta di rivedere lo stesso film quasi in contemporanea su 2 televisioni, una per il Rai 4 e l'altra su Iris, lo stesso film, lo stesso giorno. Ma guarda, ieri mi stavo scocciando perché ogni tanto mi sono pubblicità, ma lo stesso film, poi sono ricordato che c'era su Netflix, quindi allora ho detto beh, ecco, ho commutato, sono passato su Netflix, ma lo so guardato tutto quanto. Quando poi sono passato sulla Rai il film c'era ancora, forse mancavano ancora 20 minuti prima che finisse, io l'avevo già visto tutto senza pubblicità, Ma dimmelo, per Netflix anche in prima visione, per dire, tu mi hai parlato del film di Verdone, quello nuovo che è appena uscito al cinema. Quello che lui dovrebbe fare il sindaco. No, quello di Babbo Natale, no? No, quello con Carlo Verdone, che parla di lui stesso, che lo vogliono fare sindaco. È un film comico, no? Che vanno a casa sua, rompono le scatole e dicono: tu vuoi diventare sindaco? Dai, fallo, ma fallo. E quello dice: ma io veramente non ho fatto. No, no, lo devi fare. Sono messo sul trailer, ho visto una cosa del genere. Ma è un film nuovo, quello nuovo, perché ne ha fatto uno nuovissimo adesso. Perché quello non può essere di quest'anno, quindi. Ma una domanda, questo Netflix, io ce l'hanno i miei figli, ce l'hanno questi film Amazon Prime, o qualche si chiamano. I film sono in contemporanea al cinema o sono sempre saltati di 6 mesi? Ma alcuni al cinema neanche li vedi, perché sono produzioni estere, che ne so, thailandesi o cinesi anche, tradotti in italiano, che rimangono così, capito? Per esempio mi sono accorto che i cinesi stanno scimmiottando oramai gli americani, anche loro con le forze speciali, con tutte queste cose, mamma mia, stanno clonando gli americani, tanto per cambiare, sono copioni i cinesi di tutto. Naturalmente, vuoi sapere una cosa, chi sono i primi produttori di film al mondo? Gli indiani hanno, come si chiama, no? L'Hollywood indiana, diciamo, no, adesso non mi viene. Bollywood sono i primi produttori al mondo di film. Poi tutti di questi film tipo azione, tutte cose tipo quelli che noi vediamo noi Arma Letale, così che c'è sempre il supereroe che è lì che salva il mondo, ne fanno miliardi. Io molte volte guardando su internet li vedo, ma fanno troppo ridere queste cose, ridere nel senso tenerezza, perché ma che cacchio di film sono questi qua. E poi sono inconfondibili perché sono tutti gli attori colorito, diciamo, degli indiani, sempre un po' olivato, tutti così. Sono tutti, se vede un film americano c'è quello di colore, c'è il cinese, c'è il bianco, c'è l'italiano, c'è il russo, quindi sono tutti uguali gli attori. Perché saranno quelli che per il momento fanno più alla grande, no? E così, e comunque li faranno tutti. Oggi mi sono dimenticato di controllare questa questione, se ce l'abbiamo anche noi la possibilità di fare certificati tramite l'anagrafe digitale. Sì, sì, c'è, io ce l'ho con l'applicazione, non l'ho mai fatta, però c'è. No, perché c'è da poco che la settimana la c'è stata anche coso lì, Mattarella. Ma parliamo dell'anagrafe, quella comunale, che tu ti vuoi fare un certificato di nascita, uno stato di famiglia, così stiamo parlando di altre cose. No, qualsiasi documento del comune, capito? Anagrafico. No, ma c'è già da un po', c'è più di un anno questa roba, perché l'ho fatto anche per la cosa, per l'Agenzia delle Entrate, per la Camera del Commercio. Adesso se ti vuoi fare un documento, se lo vuoi subito devi pagare non so quanto, per dire la misura camerale tua o di un'impresa, una cosa del genere, te la fanno, se la vuoi nell'arco di 20 minuti te la fanno subito e paghi, mi pare, 2 euro, 3 euro, se invece la vuoi entro 2 ore non si paga niente. Sì, ma lo so. Ci sono in mezzo, figurati, se non sotto di queste cose, nonostante tutto ho fatica a volte a convincere certe persone a farsi lo speed, che è essenziale oramai, a volte è una guerra bestia. Così anche a manuale, il fatto che poi non se ne comprende nulla, perché dice ti fai la cosa, l'attivazione, ti iscrivi, eccetera, eccetera, ti puoi vedere tutta la tua situazione, buh. Lo sai, l'ho fatto da tanto, ho detto come si faccia, buh, io non sono mai riuscito a entrarci. Non sei mai riuscito a entrarci perché se non lo usi dopo un tot per motivi di sicurezza devi rinnovarsi la password. Ma se ti sei fatto il coso lì, come si chiama? Poi anche ne prego neanche due, lo rifai. Io ce l'ho sul telefonino, come posta mi serve anche per accedere in maniera velocissima tanti servizi, perché lo speed è unico, quindi se devi entrare, che ne so, all'INPS, entri all'INPS, se vuoi vederti tutta la tua cartella sanitaria, ti accorgi lo speed, se vuoi controllare, che ne so, all'ACI, ti serve lo speed. Insomma, per tutti i servizi che può offrire la pubblica amministrazione, a posto di stare lì a rompere le balle a fare la fila, se lo fai da casa, seduto, bevendoti qualcosa e te lo stampi. Sì, sì, no, quello delle poste lo faccio io, faccio sempre prenotazione online, vado a quell'ora, mi scelgo l'orario, tu vado e non so a far fila. Quello del prazo, mi serve qualche informazione di qualche veicolo, se è assicurato, con chi è assicurato, quando ha fatto una revisione per questioni di lavoro, quello lo faccio, anche se sta diventando furbacchione, adesso certe informazioni te le mettono a pagamento. Prima su certe macchine ti danno tutto, la revisione, con chi è assicurato, quanto paga di bollo, quanti chilo, tutto qua. Poi su certe altre tipi di macchine non capisco perché te lo fanno limitato. A me dillo, a me mi secca solo per quella che quella rincoglionita abbia tolto il come si chiama il cashback. Io avevo già iniziato, fortunatamente l'ho terminato a giugno, ma l'hanno liquidato, insomma 150 euro meglio in tasca mia che in tasca loro come rimborsi. Chi c'era un pochettino da prima è riuscito a recuperarsi 300 euro ed era una cosa che ti vogliava passare a eliminare la moneta, però le poste. No, no, stai attento che quello non c'è da scherzare, quello ti sta eliminando la moneta e ti elimina, ti riduce la libertà, state molto attenti. Quante fesserie che vi... Ma cosa fate, la flebo di fesserie, qualche cosa? Oppure nasce così, tipo virus? Allora, non è questione di fesserie, prova a immaginatela, tu la studi, a come funziona il discorso della moneta virtuale, la moneta elettronica, e poi ti fa un giro di conti. Guarda che qua non stiamo parlando di bitcoin, stiamo parlando di moneta che è valida a tutti gli effetti. In questo caso, tra l'altro, è un semplice rimborso che ti danno. Tu stai pagando con la carta. Qualunque cosa compri online, la paghi con la carta, non te la paghi in contanti. Quindi state facendo, per me sono, guarda, che mi occupo di queste cose che la fa, ho un ambiente informatico. Sono cose da bambini, guarda, ma neanche bambini, perché forse sono più preparati. Ma se tu pensi quanti controlli ti fanno su altre cose che tu neanche che te ne accorgi, sul telefonino, quando ti chiedono il numero di telefonino, le possibilità di accesso dentro un telefonino, a me mi sembra che viviate quasi in un altro mondo, non in un mondo moderno. No, forse tu stiamo parlando di due cose diverse, però io sto dicendo un'altra cosa dentro. Spiegamela qual è questa cosa. Allora, io ti faccio un esempio. Tu vieni in officina a me e ti dai 50 euro. Questi 50 euro io pago 2 euro di commissioni. Di questi a me mi rimangono 48 euro. Questi 48 euro li do a un altro negoziante. Altri due da 48 sono diventati 46. Poi l'altro da 46, 44. Alla fine, in 10 passaggi, abbiamo perso 20 euro dei famosi 50, io sto parlando di quello. Poi domani mattina si sveglia uno e ti blocca il passaggio, tu la carta non riconosciuta, così per dispetto, perché si è rotto il servizio o qualunque cosa, e tu hai finito. Ma io queste carte oramai ce le ho da quando sarà, praticamente da quando le hanno fatte, non ho mai avuto nessun problema. Puoi usare la carta prepagata, puoi usare quello che ti pare piace, ci vuole una carta e vai. Quindi ho fatto, guarda, c'è anche la comunità anche che c'hai, il conto spese praticamente ti posso dire che il 90% siamo su quei livelli, tra l'altro che c'è la Germania, che c'è la Francia, che c'è la Svezia, che c'è la Norvegia. Di pagamento online come un qualunque cittadino europeo, online ma anche quando vado, che ne so, a fare la spesa al banco, ma cashback, vedo che molta gente, soprattutto giovane, paga con un ETF, avvicinando il cellulare e paga. Quindi tutte queste congiure, macchinazioni, se solete li vogliono fare, ma in altri modi, anche sono più veloci tra l'altro. Allora, io dico una cosa, rubare te li posso rubare comunque, però siccome tu non hai più i tuoi soldi, i soldi non sono più tuoi, tu c'hai una carta virtuale, loro dicono, beh, da oggi io ti blocco il conto, tu non puoi fare operazioni più di 500 euro, perché io non posso fare le operazioni che voglio io, quando c'ho i soldi cartacei, se c'ho 10.000 euro, io posso spendere, vabbè, dal 1° gennaio è diverso, perché se hanno fatto un'altra legge, non so se sei aggiornato, che non puoi spendere più di 1.000 euro, 999 euro, non puoi più pagare oltre quella cifra in contanti, devi pagare o bonifico o assegno o carta di credito tracciabile. Compri un televisore che costa 1.200 euro, devi pagare con carta di credito oppure qualcosa di tracciabile, a meno che il tipo non ti fa un acconto di 500 euro, gli altri 700 glieli dai a saldo. Questa è una delle cose che la gente ancora non si è resa conto. Il problema è solo quello lì, che tu non hai la possibilità di avere i tuoi soldi. Se ti guardi quello scherzo che faceva Brignano, quella specie di sketch sulla banca, quello è uno sketch, e tu alla fine è quello che sarà, che succederà prima o poi con questo affare qua. Loro, uno schiaccia un pulsante, tu ti sei comportato male perché hai sputtato in terra, ti blocco la carta, sto facendo un esempio inutile. In Cina esistono già queste cose qua, perché in Cina c'hai un punteggio, ti danno un punteggio tipo i punti della patente, a seconda dei tuoi comportamenti questi punti li puoi migliorare oppure li puoi perdere. Per dire, passi col rosso con la macchina e ti tolgono 5 punti e ti tolgono quel poco di conto, poi alla fine quando arrivi conto, poi è finito, ti bloccano il conto corrente. Io sto dando, quella è una dittatura, però non è una dittatura nostra, però è quasi una dittatura bancaria. Guarda, allora, quello che stai dicendo, di bloccare una carta, sono cose, perché non è proprio anche due, tre, ma sono tre seghe mentali, per usare il termine più attuale, diciamo, sono seghe mentali. E tutte queste cose in realtà nei paesi civili, ripeto civili, vengono usate, eccetera, eccetera. Poi lasciamo perdere le commissioni delle banche, che le banche se non ci guadagnano stanno male, però in tutti gli altri paesi in cui le banche hanno delle commissioni addirittura anche gratuite in molti casi, questi problemi non li hanno mai avuti. Tra l'altro ti dico di più, chi non vuole queste cose è perché normalmente è un evasore, perché tu vai a fare una visita medica così e paga così e così paga colà, mentre invece oggi se devi andare da un medico privato e devi pagare, molti già ti dicono no, il contanti non può pagare, perché se poi se li scarica succede un casino praticamente. E addirittura c'è, mi stava dicendo uno, che c'è anche un doppio controllo su questo, doppio per evitare l'evasione, perché non è giusto che sia gente come tutti coloro che fanno il lavoro dipendente, che pagano fino all'ultimo centesimo di tassa, e ci sono molti che facevano i professionisti e così via, che dicevano la parola magica, con l'IVA è così, senza IVA è colà. Però con questo sistema siamo arrivati ad avere il debito pubblico più grande del mondo, perché abbiamo un'evasione enorme. Tutto lì è il problema, e siccome io li odio gli evasori, quindi carta di credito a nastro, tutto pagamento senza contanti, l'avrei fatto, guarda, dalle 10 centesimi in poi, tutto carta di credito. E allora, questo discorso tuo è valido fino a un certo punto. Prima di tutto tu non ti puoi scaricare niente in Italia, ma che non sia certificato, che non sia una fattura o uno scontrino, se no non ti puoi scaricare niente, però di cose inerenti alla salute o inerenti al lavoro che stai facendo, per cui quel discorso che hai detto tu fino a un certo punto. appunto è valido. Il problema dell'Italia, perché tu vuoi far scomparire l'evasione fiscale, devi permettere di scaricarci tutta l'ultima lira. A quel punto l'evasione fiscale scomparirebbe, come è scomparsa negli Stati Uniti, in Germania e in Francia. E se tu ti trovi uno evasore, ti ci mettono in carcere, come hanno messo in carcere Al Capone, non riuscivano a arrestarle per gli omicidi. Alla fine hanno trovato un cavillo per l'evasione fiscale e ci ha fatto non so quanti anni di carcere. In Italia c'era il ministro tempo fa alla televisione, gliel'hanno detto: ma perché non fate come negli Stati Uniti e nelle altre nazioni civili? Perché l'Italia in certi casi siamo arretrati, insomma, dice, in Italia è inconcepibile fare questo discorso. Per quale motivo? Non è riuscito a spiegare il ministro dell'economia italiano, che era un pupazzo, non è riuscito a spiegare per quale motivo in Italia non si può scaricare il gelato che mi compro da Ernesto a Platamona. Ti puoi scaricare, per dire, neanche, perché adesso i liberi professionisti, quelli rappresentanti, neanche più il 100% delle spese scaricano una parte, detrazione dell'ammortamento della macchina una parte, eccetera eccetera. Per cui di cosa stiamo parlando? Qua chi ci guadagna sono solo le banche, e boh, perché loro, se tu mi fai tutte le operazioni senza commissioni, probabilmente qualcuno è incentivato a utilizzarla, la carta di credito. Se mi fai pagare tu ogni operazione, ma stiamo scherzando, il POS, l'uso del POS, devo pagarmi l'abbonamento, ogni operazione devo pagarmi la quota, eccetera eccetera. Io quando avevo Sky, per farti un esempio, tornando a noi, anni fa, c'avevo Sky, alla fine mi volevo staccare da Sky e c'avevo il pagamento sul conto, non sono riuscito a staccarmi, per farmi bloccare Sky dal pagamento ho dovuto farmi, me l'ha detto la banca, ti devi far revocare la carta di credito. E questo è un esempio banale. Sì, evidentemente sarà spiegato da voi. No, io le spese sanitarie me le ho scaricate, mi hanno rimborsato tutto quello che ho pagato. E poi addirittura non c'è bisogno di fattura quando vai ad esempio in farmacia a prenderti delle medicine eccetera, paghi con la carta e automaticamente viene registrata. Io questa la posso controllare tramite sempre le applicazioni che ci sono disponibili, quindi vedi tranquillamente spesa fatta presso, dove e allora eccetera eccetera, e te la rimborsa. Quindi il nostro c'è, cosa stiamo parlando? È la gente che è poco informata. Comunque, a prescindere da quello, meno contanti si hanno è meglio, così almeno sei sicuro di quello che c'hai e di quello che spendi. Soprattutto se vai fuori, se è fatto tardi, sa che è. Ma andiamo. Sono l'abominevole uomo del posto. Ecco perché sto uscendo così. Buonasera a tutti. Proprio adesso ce ne stavamo andando oggi, dai, mi dispiace. Dai. Comunque questo argomento già lo continueremo approfondito, Gianfra, perché la vedo esattamente al contrario di te, ma proprio esattamente tutto quello che dici tu lo accetto per certi versi, però per la maggior parte sono esattamente al contrario. Dai, è tardi anche per me. Ciao Eugenio, mi dispiace che sei entrato adesso. Ciao Gianfra, poi ci sentiamo se coincide domani. Ciao ciao di nuovo a tutti e buonanotte. Ciao Eugenio, buonasera anche a sto andando via. No, Robè, ti dovevo dire anche altre cose, che tu hai fatto delle affermazioni l'altra volta riguardante il premio Nobel, che era stato detto, non so, che non è colpa dell'uomo tutto il casino che sta succedendo climatico. E io le verifiche le ho fatte e sono rimasto sconcertato da quello che ha detto, perché è totalmente il contrario. Ti posso dire anche chi sono questi scienziati che hanno avuto il Nobel, che sono un giapponese, un tedesco e un italiano tra l'altro, che hanno addirittura, quello soprattutto quello italiano, con i propri algoritmi stabilito senza ombra alcuna di dubbio, non so se mi spiego, matematicamente, che la colpa è al 100% dell'uomo di quello che sta succedendo. Quindi tutto il contrario di quello che hai detto tu. Vabbè, già ne parliamo un altro momento, dai, che è tardi. Ciao ciao a tutti di nuovo. Tre premi Nobel, Ok, ciao Eugenio, buona serata, alle prossime. Buonasera a tutti, buonasera. E allora, lì, sono entrato al lavoro, ho fatto la doccia e niente, sono qua. Ma, sono entrato solo per salutare perché non ho mattina mio padre è troppo presto, troppo, tanto presto, quindi me ne sta andando tutto quanto a letto. E noi stiamo facendo lo stesso. Ciao oggi ancora, buonanotte. E via, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, ciao.